e denari di Nicoletta Carbone e Deborah Rosciani. She was working in a bridal shop in Flushing, Queens. Till her boyfriend kicked her out in one of those crushing scenes. What was she to do? Where was she to go? She was out on her fanny. Allora, Nicoletta, te la ricordi la tata Francesca, protagonista di questo popolare telefilm ormai di qualche anno fa, ma che in realtà viene ripetutamente replicato su un sacco di canali? Una tata che ricordano tutti, ma oltre ai personaggi della TV, Deborah, o dei film, sì. Mary Poppins, per eccellenza, chi ha avuto una tata, una babysitter, insomma, quando era piccolo, difficilmente poi se la dimentica. Noi abbiamo la grande amica, la nostra amica tata Lucia. Tata Lucia è venuta a trovarci tante volte. Ci ha cresciuto, devo dire, però ci è rimasta nel cuore. Qualche messaggio bello ce lo ha lasciato. Allora, in apertura di questa puntata del venerdì chiediamo anche ai nostri ascoltatori se hanno il ricordo di una tata o di una babysitter che è rimasta nel cuore. Scrivetecelo con un messaggio al 349-238-6666, un sms o whatsapp. E noi tra poco... Voi anche delle tate che raccontano di che cosa bambini hanno che fatto? Sono rimasti nel cuore, storie con famiglie a cui sono rimaste particolarmente affezionate, molto volentieri, perché no? Allora, guardiamo anche l'altra faccia della medaglia, ovviamente. Tante chiamate, vedi, fa anche rima. Perché parliamo di questo tema? Perché secondo i dati Unioncamere stanno crescendo i servizi dedicati alla cura dei bambini, perché le mamme hanno l'esigenza di lavorare, oltre che il diritto anche di stare al lavoro, perché magari è una loro appunto vocazione quella di non dedicarsi completamente alla famiglia. Ma non è sempre facile trovare la persona giusta a cui lasciare i propri figli. Una nuova questione di cuore e di denari che abbiamo scovato per voi. Scopriremo che ci sono anche dei siti web per scegliere la tata giusta. Sembra un servizio un po' impersonale, in realtà sentirete che cosa si sono inventate queste ragazze che hanno realizzato questo progetto. E se io in apertura penserò alle donne, tu, Nico, oggi, se non mi sbaglio, torni ad occuparti degli ometti. Certo, degli ometti, degli omoni, dei maci. Parte infatti la prima puntata dell'anno di Salute È Uomo. Vero. Noi oggi parleremo di inquinamento, impatta anche sulla salute maschile e soprattutto sulla fertilità. Ci faremo spiegare come e perché. Commenteremo le novità del calendario vaccinale declinandole al maschile. E poi la nostra rubrica Salute Uomo, il piccolo grande uomo, ci porta a considerare una paura, un timore abbastanza diffuso tra gli uomini, quello di sottoporsi alla visita. C'è una sorta di imbarazzo, di pudore, tabù. Di un tabù, e allora che può costare caro, esatto. E ne parleremo per capire da dove nasce questo imbarazzo. Benissimo, quindi uomini, donne, tate, bambini all'ascolto, siamo tutti qua insieme, esatto. Appassionatamente. 800 24 00 24 è il vostro numero verde e noi adesso invece andiamo a darvi anche qualche numero riferito alla giornata finanziaria. E se Wall Street continua a correre con il Dow Jones, che ieri ancora una volta ha chiuso per la seconda giornata di fila sopra questo record appunto toccato due giorni fa dei 20.000 punti, un po' più prudenti oggi sono le borse europee, con Parigi che segna meno 0,4%, Francoforte meno 0,19%, Londra meno 0,13%, Milano un po' più pesante in calo dello 0,65%. Oggi dagli Stati Uniti che cosa aspettiamo? Molti dati macroeconomici, gli ordini di beni durevoli, il PIL del quarto trimestre, ma soprattutto i fari saranno puntati sull'incontro fra il leader americano Donald Trump e il premier britannico Theresa May a Washington. Ci sarà poi una conferenza stampa congiunta che seguiremo con attenzione. E per quello che riguarda l'Europa invece, anzi, andiamo subito diretti a Piazza Affari. C'è un calo, continua a correre STM, più 2 punti percentuali. Il gruppo ha presentato ieri i suoi conti, quota sopra 12 euro. Pensa, Nicoletta, che non toccava questa quotazione da ben 10 anni, ST Microelectronics. Quindi vedi quante belle notizie raccontiamo oggi da Piazza Affari. Corre Salvatore Ferragamo, più 1,66%, Yuxen & Aporté più 1,35%, Fiat spinge ancora sull'acceleratore più 0,7%, proprio per tutte le promesse sempre di Donald Trump. Oggi frenano un po' tutti i titoli che hanno avuto letteralmente la ribalta della cronaca in questi giorni per la partita generale Intesa San Paolo, Unicredit, Mediobanca. Ci sono delle dichiarazioni dell'amministratore delegato di Intesa San Paolo, Messina, che ha detto: sì, noi naturalmente Siamo usciti alla scoperta, vorremmo fare l'operazione su generali, ma naturalmente un'operazione che verrà portata avanti solo con un prezzo adeguato, creando valore e non minacciando capitale e dividendi della stessa banca Intesa. Per cui work in progress, come si dice, vedremo come procederanno le cose nei prossimi giorni. C'è un'altra notizia che riguarda Poste Italiane, titolo fermo oggi a Piazza Affari. Il governo dice di essere pronto a mettere una nuova tranche sul mercato, quindi una nuova privatizzazione, vedremo entro quando tempo verrà fatta. I titoli con i ribassi più forti: Unicredit -3,5%, UbiBanca -2% e la stessa Generali oggi riperde smalto -1,47%. Abbiamo un'asta BOT semestrali per 6,5 miliardi. Andiamo al tema annunciato poco fa. Pochi giorni fa, durante la conferenza del Forum Economico di Davos, è stato presentato il rapporto Oxfam sulle diseguaglianze economiche nel mondo ed è un rapporto che analizza attentamente anche le diversità di genere nel mondo. L'Italia, rispetto a Spagna, Danimarca, Canada, Nuova Zelanda, Regno Unito, Australia e Norvegia, è l'ultima per il lavoro non retribuito che le donne si sobbarcano quando rientrano a casa dall'ufficio. Le donne sbrigano ancora il 75% dei lavori di cura della casa, si prendono ancora cura dei figli e degli anziani in misura nettamente maggiore rispetto agli uomini. E se andiamo invece ad affrontare il mondo del lavoro, come sapete anche qua il panorama non è molto incoraggiante, sono tante le mamme che devono e vogliono lavorare, forse anche questo spiega il dato di Unioncamere che attesta come negli ultimi 5 anni i servizi dedicati alla cura dei bambini siano cresciuti del 5%. Fra questi ci sono anche siti web per cercare la tata giusta. Allora noi oggi vi vogliamo raccontare proprio un'esperienza di questo genere e in collegamento telefonico con noi c'è Dora Pelle, responsabile della comunicazione di Nannuca, non so se ho messo correttamente l'accento, è un sito che si occupa proprio di questo. Dora, buongiorno, benvenuta a Cuore Denari. Buongiorno. Nicoletta, buongiorno Deborah, vi ringraziamo tantissimo. Hai sentito che accento particolare, perché Dora è greca, giusto? Sono italo-greca. Italo-greco. Italiana, metà greca. Perché questa... chiedo scusa per il mio accento. Ma ci mancherebbe altro, per noi vogliamo è solo piacevole. Vogliamo la ricetta della moussaka, comunque. Esatto, tanto per cominciare, per fare amicizia come si deve. Allora, Nannuca è un'esperienza proprio nata in Grecia ed è molto importante questo, perché paese simbolo della crisi economica, e che ora arriva anche a Roma, a Milano, sbarcherà a Londra, a Dublino e non solo. Allora, che cosa fate? Che cosa trovo se vado sul vostro sito, Dora? Allora, sul nostro sito, cioè www.nannuca.com, se sei un genitore puoi trovare tutte le esperte che hanno creato il loro profilo professionale. Come genitore puoi pubblicare un annuncio, e queste esperte, uso ora la parola esperte perché non abbiamo solo tate o babysitter, abbiamo educatrici, pedagogisti, pedagogisti speciali, puericultrici, ci sono tante professioni. Possono mettersi in contatto e possono mandare pure richieste di lavoro individuali, i genitori. Poi, dall'altra parte, se sei un professionista, puoi avere il tuo profilo professionale verificato. Mm-hmm. Vi spiego dopo che si può avere il profilo verificato. Certo. E poi praticamente rispondere su tutti gli annunci e ricevere pure richieste di lavoro. Ma Dora, come vi è venuta in mente questa idea? Che tipo di esigenza avete voluto dare una risposta? Come vi si è accesa questa lucina? Praticamente è stata un'esigenza personale delle 3 mamme fondatrici, Lela Drizza Psaros, Natalie Levy e Caterina Labru. È stata una loro esigenza personale e hanno deciso, hanno voluto scommettere in un periodo un po' difficile, abbastanza difficile per la Grecia, di dare una mano ai genitori, di trovare una persona adatta alle loro esigenze, però aiutare pure i professionisti che stanno cercando lavoro. Certo. In Italia, hanno creato questo servizio. In Italia come sta andando? Avete già raccolto adesioni sia da parte delle famiglie che hanno bisogno? Siamo molto soddisfatti, perché a parte il fatto che in pochi mesi abbiamo di più di 4.000 iscritti tra genitori e esperte, la cosa più bella è che vediamo che i genitori hanno fiducia nel nostro lavoro. Ci sono caratteristiche differenti un po' tra le mamme greche e le mamme italiane, questa è una cosa bella, interessante, cioè le mamme italiane non vogliono solo avere una persona con esperienza, con referenze, essere responsabile, ma vogliono pure la tata che è già una mamma. Chiaro. Il servizio Dora è finalizzato a trovare una tata fissa, o se c'è anche un'esigenza una tantum risponde anche a questo bisogno? No, le spiego. Ogni esperta ha il suo profilo professionale. Un campo è il calendario che praticamente dimostra la disponibilità di questa ragazza, di questa signora. Ci sono le ragazze che mettono orario, i giorni, cioè la mamma può vedere i giorni che la ragazza è disponibile. Ci sono le ragazze che stanno cercando lavoro a tempo certo. pieno, ci sono quelle che hanno per tempo parziale. Chiarissimo. Dora, noi dobbiamo salutarci perché il tempo a nostra uh-huh. disposizione è terminato, ma se io seleziono una tata della quale ho bisogno e prima di metterla subito al lavoro e farla conoscere uh-huh. ai miei figli, posso conoscerla io prima per avere una valutazione di pelle, se appunto mi piace, se vado d'accordo oppure no? Il primo controllo lo faccio io personalmente, chiaro. Colloquio e controllo tutti i documenti, si fa tutto per la sicurezza dei bambini. Poi il genitore può mandare una richiesta di lavoro o mettersi direttamente in contatto e fissare un chiaro. Appuntamento con la tata. Allora, aiutiamo questo sito, stavi notando delle sì, domande allora, che arrivano? Un ascoltatore ci sottolinea che il 3% della popolazione in Italia non si può permettere una tata e quindi è un problema di costi. E vabbè, c'è il 97% di popolazione che ha bisogno. Che ci sia un'offerta. Sì. Ecco, esatto. Sì, e non è un'agenzia. È un servizio online digitale, questo è diverso. Che differenza c'è, Dora? Praticamente la procedura relativa al pagamento e la gestione di tutti gli aspetti della collaborazione è responsabilità esclusiva del rapporto tra genitori e babysitter. Benissimo, quindi voi li fate incontrare, dopodiché non è vostra competenza gestire anche le questioni amministrative, esatto. contrattuali e di retribuzione. Dora, in bocca al lupo per tutto, facci sapere come va. Grazie molte. Certo. E in bocca al lupo soprattutto insomma anche per questa, tra virgolette, idea imprenditoriale, chiamiamola un po' così, perché c'è tanto bisogno anche un po' di stimolare certo. in questo senso. La creatività, non far perdere le speranze magari chi si trova in oggettive condizioni professionali e vuole un'idea per ripartire. Nicoletta, andiamo al traffico e torniamo. Cuore e denari. Sbucchi gli occhi all'improvviso alle vostre spalle. Sì. E mi riprenderò i miei 80 euro. L'inconfondibile Maurizio Crozza che ironizza nei panni di Matteo Renzi in occasione del referendum del 4 dicembre, di cui conosciamo appunto tutti bene le conseguenze. Lui così frustrato per aver perso quella partita, insomma, veniva rappresentato da Maurizio Crozza come proprio intenzionato a rivalersi in ogni modo, fra cui anche riprendersi gli 80 euro. Non si è naturalmente verificato quanto minacciato dal Matteo Renzi di Crozza e naturalmente chi riceveva il bonus degli 80 euro continua a farlo anche nel 2017, però ci sono alcuni aspetti da chiarire, perché in realtà qualcuno che lo aveva preso ha dovuto restituirlo, chi invece potrebbe prenderlo magari non lo sa, non fa le dovute comunicazioni, anche se dovrebbe fare tutto il datore di lavoro. C'è chi cambia lavoro nel corso dell'anno e ha una combinazione un po' mista che provoca qualche piccolo problema. E quindi, insomma, per rifare un po' un punto della situazione, questa mattina abbiamo reinterpellato il nostro consulente del lavoro preferito, ma senza nulla togliere agli altri, naturalmente, però siamo particolarmente affezionati ad Alessandro Rotaporta, che salutiamo. Buongiorno e benvenuto, esperto anche per il Sole 24 Ore. Buongiorno a tutti, grazie dell'invito. Questa mattina abbiamo fatto la sviolinata senza ritegno. Volevo intanto, Alessandro, solo un attimo salutare gli ascoltatori che ci stanno scrivendo a proposito del tema che abbiamo lanciato all'inizio trasmissione, la tata. Ve la ricordate, quella che ha accompagnato i primi vostri anni di vita, oppure siete una tata che ricorda con particolare affetto i bambini di cui si è presa cura? Mirella da Trieste ci scrive: avevo tata Leda, detta Dida, oggi vive a Vancouver, la adoravo, l'ho rivista una sola volta 20 anni fa, purtroppo. Qualche cosa da WhatsApp, Nicoletta? Sì, Lidia da Milano invece è una tata, il bambino che curava le è rimasto nel cuore e sarà sempre nel mio cuore. Benissimo. Il suo bambino. Allora, andiamo al bonus degli 80 euro, diventato proprio famoso come gli 80 euro in busta paga. Lo ricevete? Vi siete trovati ad avere delle complicazioni o dei dubbi sui requisiti? 800 24 00 24, numero verde per le vostre domande, di natura come sempre pratica e concreta. Alessandro Rotaporta, ricordiamo che cos'è questo bonus e chi ne ha diritto di riceverlo appunto in busta paga e sotto che forma anche si presenta. Allora, il bonus in termine tecnico è un credito IRPEF, quindi è un credito che il datore di lavoro riconosce ai lavoratori a determinate condizioni. Sono meno tasse pagate, precisiamolo subito, ecco, esatto. Esatto. In sintesi, a chi spetta il bonus? Il bonus spetta esclusivamente a chi possiede redditi complessivi, quindi puntualizziamo bene questo termine, questa accezione, complessivi, compresi tra gli 8.000 e i 26.000 euro lordi annui. Quindi normalmente spetta ai lavoratori dipendenti che ovviamente si trovino in questa fascia reddituale e a chi percepisce redditi assimilati a quelli da lavoro dipendente, quindi pensiamo ad esempio ai collaboratori coordinati continuativi, ai lavoratori che percepiscono sussidi, quindi NASPI, indennità di disoccupazione, cassa integrazione e quant'altro. Sono esclusi invece i redditi che derivano da pensione, rendite vitalizie o assegni periodici, e il bonus viene appunto applicato in via automatica dal sostituto d'imposta, quindi il datore di lavoro che sulla base dei dati fiscali a sua disposizione, qualora il lavoratore si collochi in quella fascia di cui accennavo prima, lo applica in via automatica. Se il lavoratore non vuole l'applicazione del bonus, deve informare il datore di lavoro e chiedere appunto che non gli venga un esonero, che non gli venga a applicato. Quali condizioni? Perché un lavoratore non dovrebbe volerlo, Alessandro Rottaporta? Ma perché ci possono essere delle situazioni delle quali il datore di lavoro non ne ha conoscenza. Pensiamo ad esempio a un lavoratore che ha diversi rapporti di lavoro, perché magari con quel determinato datore intrattiene un rapporto part-time e poi ne ha altri rapporti part-time con altri datori. Quindi il datore di lavoro singolo, se il lavoratore non gli riferisce le situazioni che impattano reddituali sugli altri rapporti, non ne ha conoscenza. Certo. Oppure il lavoratore che viene assunto in corso d'anno e quindi deve rendere dotto il nuovo datore di lavoro della situazione di gestione del bonus sul precedente rapporto di lavoro. Chiaro. Oppure bisogna stare attenti, perché se il lavoratore ha degli altri redditi, quindi che ne so, ad esempio redditi derivanti da case o terreni che possiede, che quindi non risultano al datore di lavoro e quindi che vanno a incidere, quindi ad aumentare e a farlo uscire da quella fascia reddituale corrispondente soltanto allo stipendio, allora deve essere informato. Allora, naturalmente si sono subito scatenati proprio quegli ascoltatori che dopo esserselo visto riconosciuto in busta paga invece gli è stata chiesta la restituzione. Allora, chiaramente non è un dispetto, mi rendo conto che nel momento in cui uno ha qualche soldino più in tasca ti viene chiesto di essere restituito, di restituirlo, piacere. E poi naturalmente, tra l'altro, la restituzione come funziona a Rottaporta? Avviene tutto in un'unica rata, quindi magari uno si può vedere anche sottratto un intero stipendio in un mese, proprio perché no, sì, perché un intero stipendio ma una bella fetta. Cosa succede? Che in occasione della busta paga di fine anno, quindi di dicembre, il datore di lavoro d'imposta effettua il conguaglio fiscale. Se a inizio anno, quando il datore di lavoro imposta l'applicazione della tassazione, aveva presunto sulla base del solo reddito che eroga direttamente lui l'aspettanza del bonus, e poi incidono queste situazioni che abbiamo descritto prima, che invece vanno a far sforare i 26.000 euro, quindi vanno a far perdere l'aspettanza del bonus, in quel caso è lo stesso datore di lavoro che nel cedolino di conguaglio va a recuperare quanto ha assegnato a titolo di credito nel corso dell'anno. Un altro caso curioso, adesso ce lo segnala Giuseppina dalla provincia di Firenze, perché proprio anche a questi casi volevamo arrivare. Giuseppina, le faccio fare la domanda, le faccio raccontare il suo caso e poi le rispondiamo dopo il giornale radio. Ci dica, benvenuta intanto. Grazie, buongiorno. Allora, io vorrei chiedere questo. Dunque, ho un lavoro di 14 ore a settimana, ovviamente non percepisco, non arrivo nemmeno a 8.000 euro l'anno, e mi è stato detto che io non ci rientro. Esattamente. Per redditi inferiori alla soglia degli 8.000 euro l'anno, il bonus appunto da 80 euro non viene riconosciuto come diritto. Ci faremo spiegare da Alessandro Rottaporta dopo il giornale radio per quale motivo. Intanto continuate a chiamarci all'800 24 0024 o a scriverci al 349 238 6666. Naturalmente questa quota di 80 euro al mese può essere anche una quota inferiore. Vi spiegheremo anche le ragioni di questo aspetto a tra poco. Il segnale orario vi è offerto da Legno Edilizia, Fiera di Verona dal 9 al 12 febbraio. Cuore e denari. Siccome conosco delle persone che guadagnano 1000 euro al mese e non riescono ad arrivare alla fine del mese e grazie agli 80 euro si sono permessi uno zainetto in più, una cena in pizzeria in più, io su questo sono contento. Vabbè, sì, qualche fischio si era pure preso, poi però ce lo diceva anche un imprenditore scrivendoci. Chi poi lo ha avuto in busta paga, il famoso così, contributo di 80 euro che tanto sbeffeggiava l'elemosina, poi è stato contento. Questo non significa che noi stiamo dando un giudizio politico all'operazione, no, certo. Che ce ne naturalmente guardiamo bene, noi spetta solamente spiegare tecnicamente come funziona, chi ce l'ha, chi non ce l'ha. Per chi non ce l'avesse ma magari sa di averne il diritto, forse non ha fatto qualcosa che doveva fare per cui ha mancato appunto di prenderlo, qualcuno invece se n'è visto chiedere la restituzione rimanendo naturalmente molto male. Detto ciò, bisogna stare molto attenti anche. In ogni caso non è una liquidazione mensile di un importo ma è semplicemente un risparmio appunto sulle tasse, per cui questo è il motivo anche, e ce lo spiegava prima Alessandro Rottaporta, per cui chi non paga l'IRPEF perché è cosiddetta figura incapiente non se lo vede riconoscere né in pensione appunto né in busta paga. Detto ciò, Alessandro Rottaporta, eravamo rimasti al caso di Giuseppina, toscana mi sembra, che non percepisce neanche 8.000 euro l'anno, e anche questa è una soglia importante da segnalare perché appunto chi guadagna meno di questa cifra effettivamente non se lo vede riconoscere. Sì, esatto, l'ascoltatrice ha detto di avere in essere un part time di 14 ore e quindi se non supera quel limite degli 8.000 ovviamente non scatta il pagamento di IRPEF, quindi non c'è IRPEF a debito, e significa che questo lavoratore è classificato come incapiente, cioè in sostanza per avere diritto al bonus ci deve essere un'imposta dell'IRPEF da versare. Se le detrazioni personali superano l'imposta da pagare, ovviamente non scatta il diritto al bonus. Non rilevano invece, ai fini di questo calcolo, è importante precisarlo, le detrazioni per carichi di famiglia, quindi si guarda al calcolo dell'imposta con l'applicazione delle detrazioni personali. Chiarissimo. Allora c'è un Ernesto che scrive: il bonus 80 euro per chi lavora presso cooperative sarebbe valido? Mi pare di sì, che per i soci delle cooperative spetti. Aspetta, certamente. Ok, allora tante domande che stanno arrivando, adesso faremo una batteria di quesiti appunto ad Alessandro Rottaporta, ma io segnalo anche un'ulteriore operazione che abbiamo organizzato al volo. Sì. Metteremo fresca. Esatto, sul profilo Facebook della nostra trasmissione Cuore e Denari, per cui chi non avesse ancora cliccato, non avesse messo ancora like, lo vado a fare immediatamente, metteremo un post, l'apertura a tutte le domande sul bonus da 80 euro, e nel corso di questa giornata ogni tanto Alessandro Rottaporta andrà a dare un'occhiata, a rispondere a tutti coloro appunto che avranno delle domande alle quali sarà possibile dare risposta. Per cui oggi mettiamo a vostra disposizione questo ulteriore servizio. Per quello che riguarda appunto invece le domande, Nicoletta stava allora, monitorando WhatsApp. Prima Gianni ci scrive se nella busta paga c'è una voce specifica per riconoscere il bonus e quindi controllarlo. Rottaporta. Sì, solitamente sul cedolino c'è proprio una voce che identifica il bonus, quindi è evidenziato nella busta paga. Allora sì. Vuoi sapere, ormai parliamo come i due, come si chiamano i pappagallini. Esatto. Allora, posso leggere anche quello di Claudio? Vai. Allora, vuole sapere se un'eventuale liquidazione del lavoro dipendente percepita nel corso dell'anno viene presa in considerazione per il calcolo del massimale, oltre il quale si perde il diritto agli 80 euro. Quindi questo TFR rileva, come dice lei in gergo del consulente del lavoro, ma non solo, per no, il calcolo del reddito complessivo. Il TFR non rileva. Ah, Quindi se lui ha preso il trattamento di fine rapporto viene considerato voce a parte, e magari se aveva invece il requisito reddituale medio per avere il riconoscimento degli 80 euro appunto può ottenerle. Sì, sì, perché il TFR è soggetto a una tassazione separata, quindi così come ad esempio non nel computo dei 26.000 diciamo di soglia massima per avere diritto al bonus non rileva quindi è una soglia al netto del reddito dell'unità immobiliare adibita certo. all'abitazione principale, quindi ci sono delle specifiche. Il rapporto degli 80 euro invece con gli ammortizzatori sociali. Un ascoltatore chiede: prendo la disoccupazione, ho la casa intestata, il fatto di essere proprietario di un'abitazione rileva? No, dicevo che appunto lo spiegavo prima che quella fascia di 26.000 va desunta al netto del reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. Lo ribadiamo. Invece, per quanto riguarda i percettori di ammortizzatori, chi applica il bonus o non lo applica è l'INPS, quindi l'INPS funge da sostituto d'imposta e sulla base del reddito derivante dal trattamento, dal sussidio in questione, applica o non applica il bonus degli 80 euro. Allora, come si calcola Rotaporta? Allora, il bonus è assegnato, ovviamente è parametrato al periodo di lavoro, quindi viene diviso un caso lineare, si lavorano tutti e 12 mesi dell'anno e quindi si ha un rapporto di lavoro stabile e allora, si rientra nei parametri reddituali, ecco. Se il rapporto si protrae per tutto l'anno e quindi il lavoratore gode di tutti i 365 giorni spettanti di detrazioni personali, allora il bonus sarà intero. Se c'è ad esempio invece una causa sospensiva di quel rapporto di lavoro, pensiamo ad un periodo di aspettativa non retribuita, allora quel periodo ovviamente per quel periodo non spetta il bonus degli 80 euro. Quindi questo è un po' il metodo di conteggio. Poi c'è un'altra particolarità che riguarda la fascia di reddito tra i 24 e i 26.000 euro, dove lì il bonus non è proprio di 80 euro pieni, ma c'è una formula che praticamente va a riproporzionare la misura degli 80 euro, quindi sarà un po' inferiore a seconda di questo conteggio. Quindi insomma se qualcuno lo vede una cifra inferiore, non è un errore attribuibile da qualcuno, ma è riconducibile appunto al calcolo che ha già spiegato poco fa. Esatto. Senta, allora noi abbiamo fatto adesso un esempio di una situazione lineare, di una persona che ha un contratto di lavoro a tempo indeterminato, quindi 12 mesi di stabilità presso un unico committente, chiamiamolo così. Ammettendo invece di avere un caso un po' diverso, ma facciamo riferimento magari al caso di un giovane che spezzetta un po' la sua vita professionale nel corso dell'anno, 6 mesi presso un datore di lavoro, poi per altri 3 mesi appunto ne ha un altro rapporto di lavoro, tutto a tempo determinato. In questo caso, pur avendo i requisiti appunto reddituali per vederselo riconosciuto in busta paga, di quale busta paga parliamo? Presso quale datore di lavoro appunto deve fare richiesta? L'ultimo presso il quale lavora oppure può farlo dal primo? Cioè come funziona? Diamo due dritte concrete anche per questi casi. Allora, in questo caso deve stare molto molto accorto il lavoratore a informare il successivo datore di lavoro, quindi il secondo, il terzo e via discorrendo, rispetto alla situazione di come è stato gestito il bonus e quindi alla situazione anche dei crediti che ha percepito in precedenza. Quindi se queste informazioni sono trasferite da un datore di lavoro all'altro in modo corretto, l'ultimo datore di lavoro tiene conto anche dei redditi erogati dai datori di lavoro precedenti e quindi del bonus già pagato o non pagato. Viceversa, se questo passaggio di informazioni viene meno, si possono verificare due situazioni, quindi in automatico l'ultimo datore di lavoro, quindi oppure tutti, lo vanno ad applicare perché rispetto alla parte che hanno corrisposto di reddito singolarmente il lavoratore rientrava nei requisiti e poi invece sommando tutti i redditi il lavoratore lo deve restituire, e quindi in questo caso qui attraverso il 730 o l'unico, se il lavoratore deve fare l'unico lo restituisce, oppure c'è il caso in cui invece non l'ha percepito perché magari ha detto preferisco non percepirlo e quindi ha segnalato di non applicare ai diversi datori di lavoro, non conoscendo poi alla fine quale poteva essere nell'anno la sua situazione complessiva, e lo va a recuperare sempre tramite la denuncia dei redditi 730 o unico che sia, a seconda delle condizioni. Benissimo. Allora, per tutti gli altri quesiti avete tra qualche minuto a disposizione il nostro post su Facebook. L'ultima domanda in 30 secondi, Rotaporta. Ancora continuano ad arrivarci delle richieste di chiarimento da quegli ascoltatori che lo hanno percepito per un po' e poi improvvisamente gli è stato chiesto di restituirlo. Ribadiamo i casi in cui questa circostanza si può verificare. Ma appunto, quando magari il lavoratore ha omesso di segnalare al suo istituto d'imposta che aveva un reddito, pensiamo, come dicevamo prima, non so, una casa in affitto, oppure si verificano in costanza del rapporto di lavoro delle situazioni che possono invece, al contrario, come dicevamo prima, magari far scendere il lavoratore sotto la soglia degli 8.000 euro, quindi un'aspettativa non retribuita, un congedo, ad esempio una maternità facoltativa dove lo stipendio si riduce notevolmente. Quindi ci possono essere questi due estremi derivanti da questo tipo di, esatto, di situazioni. Detto questo, andatelo a chiedere anche al datore di lavoro, ci sarà un ufficio del personale capace di dare almeno il minimo sindacale di spiegazione. Alessandro, grazie molte per essere stato con noi. Grazie a voi. Ci sentiamo presto, ma non è finito. Adesso lo mettiamo al lavoro seriamente, deve mettersi lì a rispondere. Lavori forzati. Esatto, a fare questa chat, live chat, non mi ricordo bene. Una cosa di questo tipo. Esattamente, insomma. Siamo proprio due. Allora, Deborina, anche noi facciamo i conti con un problema che ci tocca tutti molto, molto, molto, molto da vicino. Allora, a Londra e a Parigi le polveri sottili hanno superato i limiti, stessa cosa a Madrid e a Berlino. La situazione non è certo migliore qui da noi, soprattutto a Milano, dove da ieri è scattato il blocco del traffico, una decisione che è arrivata dopo 7 giorni di sforamenti consecutivi dei livelli di PM10. Insomma, ci risiamo, sembra sempre di rivedere lo stesso film, l'alta con l'alta pressione si alza anche lo smog. In linea con noi Nicola Pirrone, direttore dell'Istituto sull'inquinamento atmosferico del Consiglio Nazionale delle Ricerche. Buongiorno direttore, benvenuto. Buongiorno a tutti voi. Direttore, sembra di essere sempre allo stesso punto. Salgono i livelli delle polveri sottili, scattano i divieti, dovrei dire i soliti divieti. Stessa spiaggia, stesso mare, insomma. Eh sì, purtroppo è così. Ormai è un film che conosciamo bene, l'abbiamo visto tante volte da molti anni. E purtroppo è inevitabile, se non si mette mano a risolvere i problemi alla radice, come si può dire. Ecco, siamo un po' tutti sfiduciati, sentiamo anche dal tono della sua voce una sorta di rassegnazione, ci sentiamo un po' impotenti, però direttore, vorremmo fare qualcosa per dare il nostro contributo e allo stesso tempo anche per proteggerci in qualche modo. Lei ha qualche idea per noi? Beh, guardi, allora, quello che noi individualmente possiamo fare è, in queste condizioni, limitare le esposizioni all'esterno, soprattutto laddove ci sono concentrazioni al di sopra dei limiti previsti per legge, cercare di stare fuori il meno possibile, perché poi il danno per la salute è cumulativo, quindi maggiore l'esposizione, maggiore aumenta il rischio, certo, per la salute dei cittadini. E quindi questo riguarda soprattutto anche quelli meno tutelati, bimbi, anziani, persone anziane che hanno già patologie dovute all'età, e quindi è meglio limitare l'esposizione all'esterno. Allora, secondo lei, direttore, c'è il rischio di ritrovarsi in una situazione simile a quella della Cina, dove l'inquinamento è alle stelle? A Pechino si è arrivati addirittura a creare un'unità speciale di polizia anti-smog. No, per fortuna siamo ben lontani da quelle situazioni. Là, ci mancherebbe. Lo sceriffo dello smog sarebbe una figura mitologica. No, assolutamente, cerchiamo di essere chiari su questo. La Cina è tutta un'altra situazione, hanno una situazione ambientale molto critica, noi per fortuna è una situazione che potevamo avere negli anni 70, insomma, per pochi anni fa. Però comunque non va sottovalutata, perché abbiamo visto anche l'anno scorso i limiti previsti sono stati superati anche di 2-3 volte i limiti previsti per legge. E l'anno scorso molte città hanno sforato non di 35 volte l'anno, ma anche di oltre 100-110 volte in un anno. Tre volte tanto, quindi. Tre volte tanto. i limiti previsti, e questo ovviamente va a discapito della salute dei cittadini. Ormai quindi, ci sono fior fiori di ricerche che lo dimostrano, ma il problema è che possiamo magari modificare la dieta e eliminare alcuni alimenti o sostituirli con altri, però senza aria noi non possiamo vivere. No. Quindi è assolutamente vitale, e l'aria che abbiamo è di una qualità tale che ci permette di vivere, ma ci danneggia al tempo stesso. Certo. Direttore, sentiamoci presto. Va bene. Buona giornata. Buona giornata a voi tutti. E noi di inquinamento continuiamo a parlare oggi nella prima parte di Salute Uomo. È l'uomo per me, fatto apposta per me. È il primo appuntamento del nuovo anno con Salute Uomo, e il nostro uomo è tornato, Deborah, qua in studio con noi, il professor Andrea Salonia. Buongiorno. Urologo, andrologo presso URI, il Dipartimento di Urologia dell'Università Vita Salute del San Raffaele. Scrittore. Di Milano, e responsabile scientifico del progetto Salute Uomo di Cuore Denari. Ciao. Buongiorno Andrea. E buon anno. Ciao, allora Andrea, iniziamo proprio dall'attualità, sai, sì, che noi dobbiamo essere avvinghiati all'attualità. Certo. Ecco, l'inquinamento. No, gli architetti si nervosiscono. Mamma mia. Allora, l'inquinamento impatta, lo sappiamo bene, sulla nostra salute. Tra l'altro dedicheremo proprio una puntata, c'è in questi giorni un convegno molto interessante che riunisce i massimi esperti, ci racconteranno tutto. E mi impatta anche in particolare sulla fertilità maschile. Come può succedere? Che cosa capita? Può succedere. Di base, mi è piaciuto molto quanto il direttore dicesse poco fa, è sempre molto difficile fare i conti matematici in ambito di salute, in ambito di medicina. Cioè i rapporti causali sono sempre un po' sfumati. Tanto che vi faccio un esempio banale. C'è uno studio pubblicato da un gruppo italiano, cui ha partecipato anche l'Istituto Superiore di Sanità, ed è relativo alla Terra dei Fuochi, quindi un'area dove l'inquinamento è ampiamente dimostrato, in cui si faceva riferimento al fatto che la qualità degli spermatozoi, che sono le nostre cellule germinali, cioè senza le quali una nuova vita non ha assolutamente modo di essere, potevano portare una qualità di informazione alle cellule uovo, cioè il loro DNA, fondamentalmente deteriorato. E al pari sembrava come questi spermatozoi potessero essere meno mobili, cioè meno capaci di raggiungere il loro obiettivo. Al contrario, gli studi che si chiamano un po' sistematici, meta-analitici, cioè quelli che mettono insieme tante informazioni provenienti da tante ricerche nel corso degli ultimi decenni, dicono qualcosa di leggermente diverso. Ad esempio, non c'è impatto alcuno sulla motilità degli spermatozoi, ma quello che è sicuramente impattante sullo spermatozoo è la forma dello spermatozoo, che viene ad essere alterato. In soldoni, c'è sicuramente qualcosa, l'inquinamento fa sicuramente qualcosa, l'aria non pura ha un impatto sulla fertilità al maschile. In realtà, purtroppo, non abbiamo però dei dati di certezza univoci, tali per cui possiamo dire prendi questo e hai sicuramente, certo, quell'effetto. Lo possiamo dire per il fumo di sigaretta e il tumore del polmone, questo lo sappiamo molto bene. L'infertilità o la fertilità al maschile sono ancora espressioni di qualcosa che la ricerca deve andare a mettere a punto. Però è certo vero che aria inquinata, e la Terra dei Fuochi ce lo dice bene, ha un impatto negativo su quella che è la qualità delle informazioni, cioè del DNA che gli spermatozoi porta. 800 24 00 24 per i vostri interventi in diretta al tema della fertilità. Abbiamo dedicato tante puntate, sì, tu hai sottolineato che sono tanti i fattori che possono impattare sulla salute, sì, quindi sulla vitalità e sul numero degli spermatozoi, che sì, sembra impicchiata, perché c'è uno studio francese che dice che negli ultimi 17 anni si è registrato un calo di un terzo degli spermatozoi negli uomini di 35 anni, parliamo quindi di uomini giovani, sì, e lo stesso problema è stato ben fotografato da una ricerca condotta a Padova qualche anno fa, nel 2011, che ha coinvolto 2000 individui e ha messo in luce una diminuzione del 25% del numero degli spermatozoi nei giovani rispetto agli adulti. Insomma, dati che ci fanno anche un po' riflettere, perché interessano soprattutto i ragazzi, gli uomini giovani, e quindi quelli con la maggiore probabilità di diventare genitori. Questo è un dato, Nicoletta, non così sconvolgente, se pensate solo che l'Organizzazione Mondiale della Sanità, che è chi detta netta, quelli che sono i parametri di normalità, prendendo tutte le osservazioni sulla popolazione mondiale distribuita per regioni, ci dice che dal 99 al 2010 i parametri sono cambiati così tanto da aver completamente modificato i limiti di normalità dello spermiogramma, che è quell'analisi che ci permette di dire quanti sono minimo gli spermatozoi perché uno spermiogramma sia normale. Dovevano essere 20 milioni, adesso sono 15 milioni. In soli 10 anni dovevano muoversi in un certo modo almeno nel 50%, oggi lo devono fare nel 32%, e ancora più sconvolgente, dovevano esserci almeno 15% di spermatozoi di forma normale, pensate a un girino di rana, quella è un po' la forma dello spermatozoo, bene, oggi almeno il 4%, il che vuol dire che nell'arco di una sola decade in realtà c'è stato uno sconvolgimento demografico da un lato, e tutto quello che gli studi a cui ho appena fatto riferimento ci dicono è assolutamente veritiero su scala mondiale. Non tutte le regioni hanno degli studi così accurati, ma certamente questi dati sono molto preoccupanti, tanto che oggi in Italia si dice che 7 uomini su 100, che è una percentuale rilevantissima, siano infertili, cioè non siano capaci di generare un figliolo. Diamo delle indicazioni, perché ad una coppia che sta cercando di avere un bambino, dopo quanto tempo... è utile iniziare a fare degli esami per non medicalizzare, fare troppi esami che hanno anche, ne abbiamo parlato, delle ripercussioni sull'equilibrio anche della coppia, c'è un'attribuzione, i due coniugi si sente in colpa la donna, in colpa l'uomo, e molte coppie poi vacillano. Molto. Ecco, cerchiamo di fare le cose quando servono, senza preoccuparci più del necessario, ma nello stesso tempo dobbiamo essere attenti per cogliere quei segnali e quelle opportunità che possono aiutarci a mantenere e a preservare la salute. Beh, in primo luogo partiamo da questa considerazione: avere un problema legato alla riproduzione non è una colpa, mai, e questo ci deve mettere nella condizione psicologica di non rivolgerci ad uno specialista del settore con un senso di inferiorità o di colpa. Con dire, questo è colpa mia, esatto, già proprio l'approccio verbale. E l'altro aspetto importante da sfatare: non tutte le cause di infertilità sono legate al mondo femminile, cioè il 50% delle cause sono da scrivere al mondo maschile, e quindi non si può pensare di intraprendere un percorso legato alla genitorialità o a una difficoltosa genitorialità senza considerare la sfera maschile della coppia. Questo è il primo aspetto. Di base, quali sono gli elementi importanti? Una coppia si definisce infertile, secondo ancora una volta i dettami dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, dopo 12 mesi di rapporti non protetti, non coronati da successo, cioè senza un bimbo in culla o senza una gestazione iniziata e che sta andando a buon fine. Ma è certo vero che laddove esistano delle motivazioni specifiche, cioè io so che esiste un problema storico nella mia salute che possa condizionare la possibilità di avere figlioli, non aspetterò 12 mesi. Oggi tutte le società che si occupano di riproduzione dicono: laddove esiste un problema, ad esempio io so di essere azoospermico, non avere spermatozoi, non aspetterò certo 12 mesi, dovrò essere quanto più prono all'andare a indagare quanto più possibile. Soprattutto questo è vero nelle coppie tendenzialmente anziane. Noi andiamo a sentire i mercati, poi torniamo con nuovi temi di salute uomo, novità dal calendario vaccinale, la paura di andare dal medico, di farsi visitare, il contatto proprio con il medico che crea in molti uomini un grande e pericoloso imbarazzo. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta... Cuore e denari. Allora, tanti temi a salute uomo oggi insieme ad Andrea Salogna. Andrea, in questa parte di trasmissione parliamo e torniamo a parlare dei LEA, che sono i livelli essenziali di assistenza, lo facciamo in un'ottica di salute uomo. In attesa che siano registrate dalla Corte dei Conti, pubblicate in Gazzetta Ufficiale, parliamo delle novità del calendario vaccinale declinate al maschile. Sì. Allora, la prima riguarda gli adolescenti maschi ai quali si estende il vaccino antipapilloma virus. Che bello! L'abbiamo detto tante volte, non si tratta di un unico virus, ma di una grande famiglia composta da circa 100 ceppi diversi. Alcuni sono più aggressivi di altri. In ogni caso, sappiamo, possono essere responsabili di malattie molto severe, dal cancro al collo dell'utero, naturalmente non interessa i maschi ma le femmine, ai condilomi, alle lesioni cervicali, fino a neoplasie anogenitali anche. Assolutamente sì, in realtà quelle che sono lesioni femminili interessano come i maschi, per il banale motivo che i rapporti si hanno sostanzialmente in ambito eterosessuale proprio in quella direzione. Da un punto di vista pratico si dividono in due grandi gruppi, quelli ad elevata aggressività e quelli a bassa aggressività o a basso rischio oncogeno o ad elevato rischio oncogeno, cioè di creare tumori. Nell'uomo, ricordiamocelo, sono due grandi gruppi di tumori: i tumori del pene, i tumori della regione anale e perianale, del canale anale, non solo in quelli che hanno rapporti omosessuali, ma nel 13% di quei soggetti che hanno anche solo rapporti eterosessuali. E poi ci sono tutti i tumori del cavo orale per vari motivi legati alla sessualità orale. Questo è un enorme passo avanti, il poter vaccinare a 11 anni o 12 anni quelli che sono adolescenti maschi, e ad oggi abbiamo dei vaccini assolutamente efficaci. Ci sono i vaccini quadrivalenti che coprono contro 4 agenti, sono sostanzialmente serotipi, sono 4 numeri, 6, 11, 16, 18, e arriverà a brevissimo un nono valente che copre fondamentalmente ben 9 serotipi ad elevato rischio oncogeno, fondamentale. Non sono gli unici, ci sono anche vaccini più nuovi dedicati a soggetti anziani, maschi non solo, ma nei maschi è importante, per il virus erpetico che causa dello zoster. Quello della varicella. Esattamente, che soprattutto nei soggetti immunodefedati o più anziani o con stress psicogeni o con condizioni che di malattia o meno possono causare un abbassamento delle difese cellulomediate, possono determinare una riattivazione che di per sé è estremamente dolorosa. E tutti conosciamo il fuoco di Sant'Antonio raccontato magari dai nonni. In realtà l'herpes zoster riattivato può dare problematiche neurologiche ben più gravi che non il solo dolore, fino ad arrivare a stroke, cioè a ictus, e questo ovviamente in una persona può determinare fino a morte, il che vuol dire che a partire dai 65 anni, questo è quanto i LEA nuovi propongono, si potrà vaccinare quelli che sono soggetti al maschile e al femminile proprio per questo impedire le riattivazioni. Alla famiglia dell'herpes appartiene anche l'herpes virus genitalis, sì, che è un'infezione a trasmissione sessuale molto somigliante a quella provocata labiale dall'herpes virus labialis, sì, di tipo 1. Allora, esiste, Andrea, una possibile relazione tra i due tipi di herpes? In pratica, chi ha la febbre al labbro è potenzialmente più a rischio di soffrire di herpes genitalis? No, no? In realtà no. Perfetto. Non abbiate paura, e peraltro anche a parte rarissimi casi di danno di tipo neurologico derivante dagli herpes labiali, per fortuna non esiste correlazione alcuna, e la severità dell'uno non corrisponde alla severità dell'altro. Allora, l'herpes genitalis è molto insidioso, sì, ha un alto indice di trasmissibilità, è spesso anche difficile da diagnosticare, soprattutto se uno, sì, non va dal medico e vuole fare tutto da sé, e è anche impossibile da eradicare completamente perché sonnecchia nell'organismo e poi tira sulla testa. Sì, allora, sì, sì. E io credo che sia importante parlarne proprio per fare un po' di informazione, perché tanto se no non ne parla nessuno, parliamone, perché poi ma per un motivo informare banale, Nicoletta, perché tutti pensano che le malattie sessualmente trasmesse siano l'HIV, e l'HIV è ancora l'HIV, ma in realtà la congerie di malattie sessualmente trasmesse sono enormi da un punto di vista numerico. Pensate solo alla clamidia, al tricomonas, ureaplasma, che sono dei nomi da letteratura da un certo punto di vista, fantascienza addirittura, ma sono estremamente prevalenti nella popolazione, e ce ne rendiamo sempre più conto quando arrivano ancora una volta le nostre coppie infertili che cercano un figliolo e guarda caso hanno papilloma misconosciuto, clamidia misconosciuto, ureaplasma misconosciute, che possono dare danni anche ingenti alla riproduzione tutta. E dove si sono stati stati dove si sono contratti ancora una volta tramite rapporti sessuali. Quindi, il profilattico? Il profilattico può non coprire, basta. Ma non basta. L'HPV, ad esempio, non per forza di cose il condiloma comparirà solo sull'asta del pene. Ci sono dei condilomi ai livelli della radice del pene, a livello perianale, a livello del cavo orale, l'abbiamo detto prima. Quindi, di base, tanto più promiscui sono i rapporti, tanto è maggiore l'indice di rischio legato alla trasmissibilità dell'agente virale. E questo vale anche per le altre specie. Indicazioni pratiche, un consiglio a chi ci sta ascoltando e che tendenzialmente fa un po' lo struzzo. E beh, quindi ne parleremo dopo. Sì, non, perché proprio non aver la nostra vergogna, ecco, la di nostra, farsi valutare. Il nostro spazio, il sì. Piccolo grande uomo, è proprio dedicato a una lettera che racconta, come sentiremo, una difficoltà, un pudore, una vergogna. Andiamo ad ascoltarla, se Carmelo ce la manda. Ciao a tutti, sono Carlo, ho poco più di 50 anni e ascolto sempre Salute Uomo. Vi ho sentiti parlare del pene, dei testicoli, del cuore, della depressione, dei calli e di tante altre cose. Ora, da uomo, dovrei sentirmi gratificato del fatto che di noi, noi maschietti intendo, ci si occupi a 360 gradi. Anzi, mi piace dire che mi sento tutelato nel mio essere maschio. Però c'è un però. Niente paura, niente paura, niente paura, ci pensa la vita, mi hanno detto così. Ma se noi uomini, o almeno io, fossimo molto molto timidi? Mi spiego meglio e parlo in prima persona. Se io fossi così vergognoso e impacciato e fin inibito da avere letteralmente terrore di una visita da quelle parti lì, leggasi i miei genitali. Sono sempre andato in palestra o in piscina mettendomi nudo come Adamo, ma farsi visitare, magari pure da una dottoressa, quello proprio mi mette grande disagio. C'è un rimedio. Beh, 50 qua. Anni mai una visita, speriamo che ne abbia fatte. Beh, lo stai bacchettando, però allora è interessante. Carlo molto. In palestra si mette nudo come Adamo, ma l'idea di un incontro ravvicinato con l'andrologo che ispezioni genitali, palpa i testicoli, controlla il pene e lo manda in ansia. Allora mi chiedo, è timidezza, è davvero questo il problema di Carlo? Vogliamo capire, anche aiutateci voi con i vostri interventi, da dove nasce quel senso di pudore così estremo, così irrazionale, al punto da non reggere una visita e quindi pagarne poi tutte le conseguenze. Esatto. Andrea, sicuramente è un problema, questo è un problema serio che come andrologo conosci bene, è un problema culturale, ma è che è molto difficile da affrontare e superare, perché spesso, a differenza di quello che ha fatto Carlo, e noi siamo contenti di avergli dato questa opportunità e che ce l'abbia rimandata, certo. Ecco, non viene confessato. Insomma, sembra che l'uomo, che non deve chiedere mai, si senta nudo sul lettino del medico e perde insomma quella virilità, quella sicurezza che magari in palestra sfoggia con un'apparente sì. Prosopopea. Adesso sì. Noi ci fermiamo, andiamo, se vi riconoscete nel problema di Carlo o se state crescendo un figlio che è adolescente e mostra di avere di mandare dei segnali di estrema timidezza, un pudore che non giustificate, delle scuse che non stanno in piedi, magari non vuole più fare la doccia, certo, dopo gli allenamenti a calcio. La sindrome dello spogliatoio, no? Potrebbe essere quello. Qualcosa al di là del solo non farsi vedere dalla mamma e dal papà. Ecco. Andiamo a sentire le informazioni sul traffico. Cuore e denari. Siamo tornati insieme, abbiamo aperto la nostra rubrica del piccolo grande uomo che ci porta a trattare un tema che forse non viene confessato ma è reale ed è un po' la paura dell'uomo di andare dal medico, di avere un incontro ravvicinato con un andrologo, con un'androloga donna. Sono andata a leggere un po' il forum e nei forum gli uomini confessano ad esempio di avere paura di avere un'erezione durante la visita e questo li imbarazza molto, sì. Alcuni raccontano, ecco, poi leggendo magari si autosuggestionano, sì, è un problema, ecco. Guarda, la cosa è molto più complessa da un lato e molto più semplice dall'altro. Mi piace Deborah che mentre a microfoni spenti mi raccontava di un signore che scrive: un mio amico ha fatto questo, quest'altro per... Questo è un classico, cioè generalmente capita che le persone si raccontino in terza persona, certo, cioè raccontando di un proprio disagio come se fosse ascrivibile a un amico o a un parente. Di base, ahimè, noi siamo ancora nella condizione succube di una sorta di retaggio socioculturale che ci porta nella condizione di pensare che i maschietti di base non possano avere nulla, primo; secondo, che non debbano essere visitati; e ahimè ad oggi ancora una figura riconosciuta come il ginecologo delle signore non è stata individuata, no, nonostante campagne mediatiche di comunicazione al pubblico laico, cioè alla gente, che l'andrologo, l'urologo siano le persone a cui riferirsi. Infatti su Twitter c'è una mamma di una dodicenne: mi chiedo come individuare lo specialista per una prima visita di mio figlio. E ha ragione questa mamma, anche se a 12 anni esistono le figure dei pediatri urologi, guarda caso, ne abbiamo una, la dottoressa Lesma è una di che tante. Che è già in linea con noi, che volevamo coinvolgere proprio per aiutarci a individuare quei segnali che possono tradire un problema un po' nascosto, sì, del nostro ragazzo. Buongiorno, sconosciuto. Dottoressa Lesma, responsabile del servizio di urologia pediatrica all'ospedale San Raffaele. Allora, dottoressa Lesma, i genitori si accorgono che improvvisamente il bambino si copre, si scherma, si nasconde, in bagno si chiude a chiave, evita di fare la doccia dopo l'allenamento, coi compagni, adducendo spesso a scuse improbabili. Sta diventando grande, sta prendendo confidenza col suo corpo che cambia e noi gli diamo il suo tempo. Ma a volte, dietro questo cambiamento, in questa fase i genitori rimangono un po' smarriti. Cosa fare? Intervenire? Lasciare che il tempo faccia un po' il suo corso? Ci sono dei segnali, degli indicatori che lei vuole suggerirci? E soprattutto, ci sono degli errori grossolani che possiamo evitare? Sì, grazie davvero della domanda. Dunque, la riservatezza va rispettata. Anche in una famiglia dove si è abituati magari a girare nudi per casa, i genitori lo fanno con nonchalance per abituare il figlio al fatto che non ci sia nulla di male nella propria fisicità, può capitare che il ragazzo adolescente comunque cominci a essere più riservato, come diceva lei, a chiudere la porta del bagno, a farsi vedere meno, a coprirsi. Bisogna rispettare questa riservatezza, non bisogna essere intrusivi. È anzi vero il contrario: il ragazzo che si sviluppa e come niente si fa comunque vedere dalle sorelle è un ragazzo che sta rifiutando il proprio cambiamento, che non accetta il proprio crescere, per cui in realtà è questo più il problema. Fondamentale è il ruolo del padre. Il padre, che mantenendo questo rispetto nel confronto del figlio, deve approcciarlo con domande non dirette. Magari chiacchierando col figlio dice: ma io da ragazzo mi succedeva di pensare, non so, faccio un esempio, di avere il pene storto, invece ho scoperto che un po' di curvatura ce l'hanno tutti, per cui mi ero preoccupato per niente. E quindi parlando in propria persona della propria sessualità quando lui era ragazzo, lasciando il ragazzo meditare su queste cose. Se magari non dà una risposta immediata, però ci riflette, incomincia a pensare che queste sensazioni le ha avute anche il padre e incomincia ad aprirsi. Che qualche patologia importante possa sfuggire lo si risolve creando una cultura su cui tutti noi medici ci stiamo muovendo, e cioè sul fatto che fino a 14 anni i ragazzi maschi vengono visitati bene dal pediatra, lo sviluppo però avviene decisamente dopo. E verso i 16 anni tutti i ragazzi andrebbero visitati. Si tratta di adolescenti e quindi la figura di riferimento è l'urologo pediatrico, anche se sono ragazzoni più alti di noi, ma ancora visti dall'urologo pediatrico, per sostituire anche quella che una volta era la visita di leva. Certo. Quindi deve diventare una cultura che, come la femmina quando si sviluppa va dal ginecologo, il maschio non ha un evento specifico, ma intorno ai 16 anni comunque è sviluppato, e lì il medico Fa da filtro. Dottoressa Lesma, indicazioni preziose. Molto abbiamo preziose. Dato anche un inizio, no, dei controlli importanti. Sì. Prima al pediatra, poi a partire dai 16 anni è bene rivolgersi all'andrologo, urologo, pediatrico. Dottoressa Lesma, grazie. Se avete problemi e domande da fare, scriveteci, le gireremo alla dottoressa Lesma. Andiamo all'editoriale che, come sempre, prende spunto dall'attualità. Andrea, abbiamo giusto 2 minuti, ma vogliamo condividere una riflessione con i nostri ascoltatori. Mi piace molto pensare a quanto la dottoressa Lesma ha appena raccontato, cioè il fatto che il papà possa raccontare della propria esperienza, della propria sessualità in tempo adolescenziale, e mi piace raccontarne perché non più tardi di 6 mesi fa un papà accompagna un figliolo che non riesce a raccontarmi la sua storia, e il papà lo aiuta dicendo: forse è meglio che tu racconti quanto ti sta capitando con me fuori dall'ambulatorio, e questo quanto mi sta capitando era: io sono omosessuale e fondamentalmente non ho il coraggio di dirlo a nessuno. È la prima volta che mi capitasse di un padre che ad un adolescente favorisse la comunicazione, il cosiddetto coming out, che è in realtà totalmente altro rispetto alla condizione normale. Perché abbiamo parlato di questo? Perché in questi giorni è ancora una volta emerso quello che è un enorme problema, cioè il problema dell'omofobia. Forse vi ricorderete di quanto è stato pubblicato recentemente sulle pagine del Corriere di due ragazzi che solo perché omosessuali sono stati prima sbeffeggiati e insultati e poi picchiati a sangue. L'editoriale che ho scritto questo mese è proprio dedicato al concetto di: possiamo pensare che l'omofobia sia una malattia? Mi sono permesso di scrivere che è solo una vergogna, e questo perché, ahimè, la nostra cultura va ben al di là di quello che l'orientamento sessuale o l'importanza della sessualità, della salute legata alla sessualità. Mi piace ricordare quello che l'Organizzazione Mondiale della Sanità, ma che l'Organizzazione dei Diritti Umani ha sancito, che la propria espressione di salute e fa parte e prende in considerazione anche l'espressione della propria sessualità nelle proprie caratteristiche. E questo è fondamentale. Vi invito ad andare a leggere su Salute Uomo l'editoriale di Andrea Salonia, che ringraziamo e a cui grazie diamo appuntamento il primo venerdì di febbraio. Grazie ad Andrea, noi torniamo lunedì. Assolutamente, dopo un weekend rigenerante. Speriamo. Grazie a Marco Lombardo, Laura Vanossi, Carmelo Lauricella, è tutto, buon andiamo. Weekend. Arrivederci.